Veda, Naf, per Maria. Lo sai che resti in me fino alla fine. So che ci rivedremo un giorno. Per tenerli in quella via dei muri troppo alti, perché occhi così grandi tutto cresce troppo tardi. Pure troppo svelto per contare 15 anni, con il contrabbando si faceva i soldi troppo canti. Con un padre che non c'è mai stato dentro la sua vita, sua madre troppo stanca per poterla aver capita. Un giorno pochi esenci, una valigia, ciò mamma Maria se ne va in città, e la speranza dei paesà. Pure nell'invidia so che tutti fanno il tifo per lei, una così è fatta per sfidare gli dèi. Solo un vecchio sa quanto vale la sua voce, quanti pesce e cani vogliono mangiarsi la sua dote. Tanto vale quella donna che non può che andare in alto, sempre in alto come un falco se non sbatte sull'asfalto. Palazzo, un appartamento ancora più in alto, in una zona malfamata dove non si vede il cielo, in una zona senza vita perché è giustamente fiero. La mattina si alza presto, tanto di passaggio, il lavoro le fa schifo ma è un sogno nel cassetto. Un giorno incontra un altro mondo che le promette l'Olimpo, troppo bello per tenerne troppo conto, troppo finto. Quell'uomo col sorriso così spento, ma Maria si fa fregare perché sai tanto che aspetta. Troppi trucchi che la ingannano, manacce che la toccano, di quelli che approfittano dei sogni che certi occhioni come menti cantano. Go go, prendili al volo perché non ripassano. Chica, la tua vita senza uscita, senza prudenza in questa corsa ma senza metiva. Un calcio negli stinchi, un altro in mezzo ai denti. Abituarti, ti dicevano, come scusa per fregarti. Usata, buttata, rubata come una troia. Per i suoi sogni dimmi bimba quanta merda ingoia. Solo un sogno per volare, se fosse possibile lottare con i serpenti inutile, per uno sguardo così puro che tiene pure troppo duro di fronte a chi ne vuole solo il culo. La compassione no, non fa per lei, no, no, no, no. Questa è una lezione che attraverso mai do. Tieni gli occhi aperti, il fine non sempre giustifica i mezzi, non è forse troppi esempi, ma non una lacrima perché Maria ora sta dove nessuno più toccare la potrà. Ma sta a te adesso decidere se sopravvivere oppure dire vaffanculo, voglio vivere come dico io, perché non sopporterò che qualcuno al posto mio decida questo, dico no.